su cuore gianga su carcera su cuore gianga non beve gozo sulle dolie tasere ben si sempre a vedere a vedere sanzi mamma mamma na lettero iura ma faccio di a casa via. E chi scusa una mamma che paga prega le gottini. C'è chi scusa mamma se non so figlio la capo voleva avere. Ti ringrazio mamma che stai crescendo figlia mia con te. Seguro sta ma la vascola non la fa manca. Passa prima con me, dice la donna presta libertà. A sera a sveglia forte lo uscì. Guardate di tutti e fanno donna fine. Perché a così io trovo un bambino. Passo pure a papà. La mamma da dolore e la dignità. Qualcuno mi ha tradito, ma per noi. Quando ha bucito. Ma quanta falsità c'è sta pure che non si mai oscurità da dinte ma non sei rispettato che la bussa di porte ma pure da volontà a tu non mi scettava e non davevo vicino. Cerchi scusa mamma, se non so figlio da capo voleva bene. Ti ringrazio mamma, che stai crescendo figlia mia con te. Di sicuro sta là, ma non la scuola non la fa mancare. Passa prima con me, dice la donna presta libertà. A sera a striglia forte lo cuscino. A sera a striglia forte lo cuscino. Guardate di tutti e fotografi. Maria. Perché a così io trovo compagnia. Passa pure a papà. La mamma da dolore e la dignità. Mi manchi tanto papà. Spero che un giorno tutto questo finirà. Sei il nostro orgoglio. Ti aspetto. Ti amo papà.